la situazione del CRB denota un autentico scandalo, perché parliamo di una struttura di grandissima eccellenza, abbandonata da anni, preda di qualunque forma di degrado possibile e immaginabile, mentre, come tutti sanno, tutte le società sportive bolognesi denunciano una carenza di strutture e di impianti sportivi, e noi ci troviamo con una struttura così importante, così bella, completamente abbandonata e preda del degrado. Quindi adesso l'associazione sta valutando la possibilità di avanzare al Bologna Calcio, che è una grande società che fortunatamente sta anche ottenendo dei grandi risultati, di poter avere una forma di comodato d'uso temporaneo di quella struttura, in analogia con l'esperienza precedente di Ventipietre, che in via Marzabotto, di fianco alla sede dell'ACI, aveva per alcuni anni gestito quel sito, sviluppando tantissime iniziative sociali, culturali, anche musicali, e per fare anche lì, insomma, un'esperienza analoga, intanto rivitalizzando quel centro, presidiandolo, perché altrimenti il rischio è che diventi preda di qualunque forma, appunto, di degrado, spaccio, insomma, e chi più ne ha più ne mette. Cioè, auspicando che nel frattempo poi, insomma, maturi una soluzione di carattere strutturale, perché sono anni che si vocifera di una società che dovrebbe acquistare quel centro per farci anche gli investimenti necessari, ma qua vedo che non si muove foglia, e questo è veramente uno scandalo in particolare per il quartiere, perché, come noto, quella struttura lì, quando era operativa, era, diciamo, contestualizzata in una convenzione tra la loro proprietà, che era la Carisbo, e il comune di Bologna, la quale convenzione contemplava la possibilità di accesso alla struttura non solo per i dipendenti della ex Cassa di Risparmio, poi divenuta Carisbo, ma anche per i cittadini del quartiere, ed era una struttura frequentatissima. Adesso il quartiere è deprivato di una grande opportunità di cui si poteva valere fino a qualche anno fa.